Da Napoli Artemisia scriveva a un protettore romano: «Si compiaccia, Vossignoria, darmi nuova di vita o morte di mio marito». Non so se di giorno o di notte, se lavorando o passeggiando o parlando, ma ad Artemisia quella spina di Antonio perduto e perduto per sua colpa non dette mai tregua. A volte ci pensava con un umore di diritto arrogante, di rancore, spesso con una punta di nostalgia, ma liberata, padrona di sé. Più rari, ma intensi e lunghi, i momenti che l'immagine del marito le appariva fedele, accorata, con quegli occhi di cielo nuvoloso che dicevano «fino alla morte». Ed ecco Antonio che viaggia accanto al ciuco o solo su una strada bianca, il sacco o la cassetta in spalla, con quel suo passo liscio e strascicato come se muovesse per le stanze di casa, e qualche volta si ferma e si asciuga il sudore e guarda la valle. Eccolo che riposa in un'attitudine scomoda e tutta sua, un poco di sghembo, ai piedi di un albero qualunque, né bello né brutto, frondoso, abbastanza per dare ombre e ristoro, come se ne trovano sui cigli delle vie maestre. Sa amministrare il suo tempo di viandante e mira al suo modo passivo e dolce le nuvole lontane, i prati vicini, il crinale dei monti, e non si sa che pensi mentre raccoglie un sassolino bianco e lo ripone in tasca. Chissà cosa gli serve. Va a Loreto, a Senigallia, a Crema, a Varallo, certo non verso Napoli, anzi se ne allontana per timore, crede Artemisia, d'esservi sgradito. A Roma lo vedono di rado. Di gran mesi passano che nessuno ne sa nulla, e mentre maestra Artemisia dipinge tele d'imperatore, lui accomoda davanti a un santuario il suo banco carico di medaglie, di rosari, di santini. Santini dipinti da quel suo amico laico domenicano un po' stolto, che ha conosciuto un tempo Orazio Gentileschi e sua figlia, quella bella giovane. Sta adesso per portinaio in un convento a picco su una valle che il sole infila da bastione a bastione come uno spiedo. Da lui si ferma Antonio di tanto in tanto a rinnovare la mercanzia e a dormire una nottata, accanto alla cenere calda, secondo la stagione, o con l'uscio aperto sui prati scoscesi pieni di grilli. Parte all'alba, che il cielo è ancora stellato, e si lava gli occhi con un pugno d'erba rugiadosa per non disturbare l'ospite. Oltrepassa i ladri di strada, appiattati nelle macchie, i loro spioni vestiti da bifolchi, sfiora i carri ancora fermi dei pellegrini, ancora addormentati. Attraversa le mandrie dei buoi stanchi per il lungo cammino che li porta alle fiere. Ecco la carretta dei saltimbanchi. Il ragazzo del mangiafuoco si è fatto giovanotto e aiuta a disincagliare la ruota del barroccio dei comici. Le donne, scapigliate e maldestre, stanno a guardare. «Salute, Omodeo! Buondì, Romualdo!» Gli incontri con i falsi ciechi e storpi sono i più cordiali. Antonio ne conosce a dozzine, tutti familiari della casa paterna a Ripa Grande. Vanno ai perdoni più celebri, alle acque più famose, frequentate da donne sterili, da signori col mal di pietra. Li saluta e se ne guarda che nello stipetto a scomparti sottili che porta tra colla ci sono specchi e fibbie d'argento e anellini d'oro basso, roba che invoglia le ragazze. Ma Antonio non li mostra volentieri. Un tempo li portava alla sua donna e le ragazze non le guarda in faccia. Così immagina Artemisia, ancor padrona, come crede, degli affetti di quel fuggitivo di cui si sente creditrice e a cui dona certe divagazioni commosse come un colloquio. Fossi andata con lui, mi avrebbe caricata su un mulo con una bella sella comoda, così giovane mi sarei abituata a camminargli al fianco. Avremmo avuto col tempo un cavallo forte, un carrozzone. Antonio era così ingegnoso. Avrei partorito in una capanna, come la Madonna. Gli avrei dipinto io i santini, gli ex voto e anche quadri di importanza per i pellegrini di condizione. Ma avrebbe chiamata la virtuosa viaggiante. Porziella si sarebbe fatta grande e avrebbe cantato gli inni alla Vergine con quella bella voce che promette di avere. Per scottante che le sia talvolta il terreno di Napoli, mettiamo sulla terrazza del suo nuovo alloggio in tempo di controra, a Napoli Artemisia deve restare e dar conto di sé. Corre l'anno 30 e pericolo di peste. Poca gente va attorno. Nella gran luce del golfo l'immagine di Antonio dilegua, fra lo stormire dei suoi rosari leggeri come foglie di acacia, su una salita che ha per limite il cielo. A quel tempo, nelle famiglie civili, il padre possedeva un calepino dove, per esempio, poteva leggersi «Additanti di venerdì, giorno di Nostro Signore, dalla signora Artemisia, mia consorte, mi nacque una figlia femmina, battezzata Sant'Angelo Anilo, ed ebbe nome Porzia Antonia Grazia Cecilia Maria». Così avrebbe scritto Antonio, se avesse acconsentito a seguirmi. Conclude Artemisia con la bocca amara e un cipiglio contro il sole, contro la sorte, sulla fronte. Lei non ha mai saputo scrivere che la sua firma e non ha calepini che per invenzioni delle sue estere, Cleopatra e Bersabè, senza dire che una madre priva di marito, madre di famiglia non è. Quale sia di preciso la sua condizione, nessun confessore ha saputo spiegarglielo, per quanto abbia insistito, come del resto per meditare che faccia non le è ancora riuscito di riconoscersi e definirsi in una figura esemplare e approvata dal secolo. Né è la sua tutta presunzione. Questa è donna che in ogni gesto vorrebbe ispirarsi a un modello del suo sesso e del suo tempo, decente, nobile, e non lo trova. Un'immagine con cui combaciare sotto il cui nome militare. Tanto occorre ad Artemisia sui 33 anni, un'età in cui il costume e i gusti del mondo cominciano a persuaderla, a incantarla, ma non è principessa, non è pedina, non è forese, né mercantessa, non è eroina, non è santa, e neppure cortigiana, anche se quel che dicono fosse vero. A Firenze il complimento di un bello spirito le bastava, schiva dama di cuori, avventuriera casta, idolo delle femmine. A Roma fu donzella precipitata e sposa legittima. A Napoli, per una virtuosa del disegno, non c'è santa patrona. Tocca ripetere: Don Pierantonio mio negozia lontano, dà buone notizie, promette regali a Porziella. E Porziella cresce. Ancora un po' atticciata, bruna come un'etiope, e non sa domestica che conservi cani e comari. L'amore materno turbina, geme, combatte, delira, in silenzio naturalmente. Per il resto, arte, reputazione, ambizioni di gloria. Si contenti, donna Artemisia, di improvvisar costumi e leggi, di seminarne il germe perché ne esca, perché ne nasca, quando che sia, il frutto che oggi estinguerebbe la sua sete. E che non esiste ancora. D'altronde si roda, patisca. Questa è la sua libertà. La signora Anguissola, sofonisba, quella pittrice valente, operava già all'età mia in corte di Spagna e le fu offerto a marito un cavaliere primario. Adriana Basile, cantatrice che ne palpita ancora l'aria, quei serenissimi di Mantova se la tenevano come perla in fronte e tornò a Napoli baronessa. Delle storie dipinte a Pozzuoli. Di misura da atterrire un gigante, nessuno, dopo un mese che son finite, mostra di ricordarsi. Commissioni nelle chiese cittadine non son più da sperarsi per una donna. Quell'aprile Artemisia vestì Porziella di broccato azzurro e se la portava in carrozza facendola merendare di canditi e di latte d'asina per sfoggio. In accademia forzava l'attenzione dei visitatori e amici con disegnar donne nude e nerborute, tre volte il naturale. Il giovane cavallino Sparutello non si decideva a copiarle. Qualche sera gli ospiti e scolari furono scarsi e nel vuoto della sala la maestra cominciò a parlar troppo. Dalla stagione della sua maturità un vapore sale ad avvampare la limpidezza delle intenzioni. E chi dice lo specchio dell'onestà, pur difesa con audacia aggressiva, talvolta insolente, un vantarsi aspro, un beffeggiare la dapochezza delle femmine di casa, la loro sciocca vanità. Questa stanzione, queste figlie dello spagnolo, è un trascendere, un minacciare rappresaglie contro vaghi nemici che la offendono perché è sola e la vorrebbero vilipesa, la vorrebbero morta. Gli amici, sorpresi e impreparati, ascoltano con una compunzione senza calore, che se non ferisce, punge, e sono giovani, tutti più giovani di Artemisia, e sono uomini. Non può mancare chi strizzi l'occhio al compagno come per dire ci siamo. Parlando, parlando, sempre più concitata, La pittrice tiene a compiere l'ufficio suo e qua corregge, là cancella e ridisegna. Ma la mano le trema. I grigi occhi lampeggiano, una inutile ira la stringe alla gola. Poterli interrogare uno per uno, questi ragazzi, saggiarne la devozione, il rispetto, penetrare quel che pensano di lei. E colse, più di una volta, uno sguardo pigro, fermo come una mosca, sulle rotondità del suo corpetto trinato. No, non poteva soffrirsi maggior vergogna. Le sue armi furono dipinger sempre più risentito e fiero, con ombre tenebrose, luci di temporale, pennellate come fendenti di spada. Imparino queste femminette, questi pittorelli invaghiti di delicature. Gli uomini li dipinge armati, acciaio e ferro, e le donne in terzopelo nero, tutti avventandosi alla luce, come dicessero là, gaglioffi. Non è questa, lo sa bene. La pittura che il padre le avrebbe lodato la sera, lavoro finito, nettando la tavolozza, ma era pure il mezzo di eccitare l'attenzione, anzi la meraviglia di questo pubblico ingrato e distratto che vuole essere inchiodato, atterrito da uno spettacolo. Napoli, teatro dei vostri prodigi. Qualche poeta si ritrovò fra i curiosi che ricominciarono ad affollare l'Accademia per presentare così un sonetto in suo onore, ma i Lazzari non gridarono mai per strada. Evviva la signora Artemisia, come salutavano la bella Adriana quando usciva in mare cantando sulla cetra d'oro. Nessun principe la chiama ancora alla sua corte. Questa vice regina non si lascia servire per omaggi che riceva. Le dame primarie continuano ad ignorarla. Fu di questi anni che la Gentileschi, con l'occasione di qualche lettera da mandare fuori via, inaugurò la pompa del segretario di casa. Gli spagnoli costavano troppo, i nostrali si dimostravano ignorantissimi, si facevano rivestire a nuovo, rubavano in dispensa, scappavano portando sempre via qualche quadretto per devozione, dicevano. Nel 33 capitò in accademia Diego Salata, magro da far paura, senza camicia. Portava sul petto, insieme allo scapolare che veniva dai luoghi santi, reliquie della croce e l'albero della sua famiglia, una famiglia reale. Chiedeva pietà con gli occhi grandissimi, con la mano tremula al petto, sol che Artemisia si avvicinasse. La complimentava ogni giorno di gelsomini e rose, glieli poggiava sui piedi come a una statua di santa. Svenne di nebbia la terza sera che fu introdotto e sempre taceva. La sua trasformazione fu rapidissima dal momento che fu accolto, nutrito e provvisto. Cominciò a vestir di lungo, affermando di avere gli ordini sacri, e solo i grandi occhi famelici gli rimanevano fermi nella faccia che si mise, col corpo in moto continuo. Scomparse la lentezza, la gravità, ride, parla, si inginocchia, piange, si ricompone, sbadiglia ed eccolo partito, veloce come il vento. Di continuo mastica, ma non ingrassa. Volentieri e senza vergogna va al mercato per annecchia tenera o capitone speciale che gli piace la buona tavola. Mentisce e si pente, ha la parola lesta e subito la lacrima pronta. Giura, minaccia di sparire, che neanche l'aria saprà la sua fine. Accenna con la mano verso il mare, mormora parole bizzarre, incomprensibili, poi, freddissimo, si accinge a scrivere sotto dettato la solita lettera di raccomandazione per sé e Artemisia detta: «Questo cavaliere, Don Diego Salata, di nobilissimo lignaggio, tutto di casa mia, la serata, la notte sarà dolce. Forse a tal prezzo potrà conseguirsi una serenità breve ma perfetta. Non sono più casta di un'altra, sono libera. A nessuno fu torto». Corroboranti, istantanei e fuggevoli, sgominati dal suono di una campana in tutto simile a quella di Corte Savella. Avevano dunque ragione Luca Sartore e Fausta Lavandara, testimoni di Agostino, sboccati e protervi. Avevano preveduto giusto. La Gentileschi è donna calda, la pratica chi vuole. Oh, me sciagurata. Si dispera con altrettale buona fede la penitente improvvisa, torcendosi le mani come la Maddalena che così spesso dipinge. E almeno durasse questo fervore che le propone un estremo spettacolo, chiome rase, un saio, pubbliche confessioni, rigorosi cilici, per una tal donna, una tal bella donna. Artemisia è rapida nei recuperi, le basta alzare il capo e accorgersi di certe realtà gioiosamente esterne per esserne invasa, rinnovata in un attimo. Così una spiaggia ritorna limpida e liscia dopo i marosi. Quel crescente sottile di luna nel cielo leggero di prima sera, lei se lo sente nell'occhio già raffrescato, dopo il morso delle lacrime, la linea dell'orizzonte elementare e diseredata. Le suggerisce un oblio innocente. Quella costa, laggiù, Cilestrina, parla di avventure, di libertà, di franchigia del buon senso. E poi non c'è sugo a farsi cattivo sangue. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché vivere bisogna, come non accogliere le vanità che aiutano e sostengono? Cambia vento. Le lodi ritornano, lodi proclamate da chi si credeva magari nemico. Arriva un forestiero di cui si sa che ha detto: la prima visita sarà per quella pittrice grande che intesi essere bella e brava da espantare. Domani, Accademia Solenne, ci sarà anche Gaspare Romer, l'olandese, straricco di ritorno dal Portogallo. E chi non sa l'affezione e la stima particolare del signor Romer per Artemisia. Occorrono sedie nobili in quantità e le presta Don Angelo Pepe, che è la munificenza stessa. Massimo Stanzione manderà scanni per comodo di disegno ai pittori di rilievo, che sempre ne possono capitare di nuovi. Occorrono suonatori, si avverta la Belinda cantatrice, ai rinfreschi provvede con le sue monache padre Ilario, che è rimasto amico. La corte, chissà, sarà rappresentata, qualche dama promette di accettare l'invito. Bellezze, del resto, non mancheranno. Favorirà la superba moglie di Massimo, che quando vuole è cortese. Verranno la Ribera con le belle figlie, sciocche sì, ma trattano alla pari coi principi. E verrà anche Annella De Rosa, pittrice al primo sboccio della fama, giovane e avvenentissima. Non si dirà mai questo, che Artemisia abbia paura di un astro novello. Accoglierla, accarezzarla sarà atto nobile, da farlo ammirare e farne parlare. Con gli spilli in bocca, davanti allo specchio, ella prova l'abito nuovo e compone la scena disegnata. Annella è ritrosa, ma la Gentileschi andrà a riscontrarla sulla porta e la prenderà per mano. Sarà un bel vedere. Ecco, dirà a voce alta, e intorno si farà un gran silenzio. Ecco, signori, la pittrice più bella di Napoli. Sarà un bell'imbarazzo per gli affezionati di Artemisia, che non potranno, per civiltà, protestare. Per la verità, proteste non se ne udirono quando, fedele al suo progetto, Artemisia forzò la voce su quelle parole da fare, secondo lei, così gran spicco. Renitente, la mano di Annella non si apriva nella sua mano, sicché in egual misura ella si sentiva tirata all'impulso di scuoterla, maltrattarla e lodarla con enfasi sempre maggiore. A uno fermò gli ospiti, anche i più indifferenti. E in un sussurro complice confidava loro che la bella figliola, così valente, una perla, ha un marito bestiale che la batte per gelosia. Salvarla, salvarla bisogna, fiammeggia Artemisia, che nulla farebbe indietreggiare quando si immagina che il teatro delle azioni si metta in movimento. Come una bambina insolente, Annella torce il bel viso olivastro e pieno sotto i densi capelli neri male acconciati, tutta una sfida alla compassione e all'amicizia dell'ospite. E la donna matura non si accorge che questa, tuttora acerba, ha più amici di lei e sogghigna. Sogghigna anche dinanzi a Don Gaspare, la carta che Artemisia non avrebbe voluto giocare, ma che per la frenesia di vincere in generosità non si risparmia. Mi faccia la cortesia, signor Don Gaspare, mi serva di questo pennello giovinetto, che il migliore non c'è in tutto il reame. Proprio in questo punto, alla pressione concitata della sua mano che spinge e attrae quella della protetta, costei risponde con uno strappo che libera le dita e la persona. Annella è bizzarra, Annella se ne vuole andare, senza un riguardo al mondo. Così ella prepara i suoi successi di oggi e di domani. Massimo, il maestro innamorato, le porge il manto, il truce marito glielo poggia sulle spalle, ognuno fa largo. Chi non conosce la bella Anna De Rosa, barbara e seduttrice? Don Angelo Pepe stesso Accorre, pronto a servirla di carrozza e lasciare per lei la compagnia. Buonanotte a maestra Artemisia. Non serve essere maturi e forti e valorosi se non si impara a resistere negli incontri di maggiore impegno. In questi Artemisia è più esposta oggi di quando arrivò a Napoli 10 anni fa, esposta più che altro a soffrire. Con l'ardore di una benevolenza frustrata cade a un tratto quell'inebriato contemplarsi negli occhi di tutti. Tanto necessaria una donna come lei, sempre più inclinata a donare e a concedersi che non a osservare e parteggiare, non è gelosia né invidia, ma la certezza fredda di non contare per nessuno, dacché per una giovinetta non ha contato. Le sembra adesso di essere spogliata di tutto: talento, prestanza, bellezza, fama. E persino di quella facoltà trionfale di pentirsi e macerarsi in cui ha talvolta sognato di chiudersi con la maestà di una regina tradita. Il pentimento le pare un lusso che non sia più per lei, uno sfoggio della prima giovinezza che non può più permettersi ora che ha una figlia, due servi, una casa, questi amici e visitatori maliziosi e nessuno che la protegga, lei che non può proteggere nessuno. Diventa querula, si impietosisce di sé, perde il contegno. Quel suo sorriso smagliante, sgranato, lo prodiga senza riserbo, stendendolo sopra una indignazione che non è ira, assai vicina alle lacrime. Questo poco di talento che Dio mi ha dato, Gaspare Romer mostra di ascoltare, ma non è forse un poco infastidito per queste mani femmine che si aprono e si chiudono di continuo nel convulso gestire? Veda, Vossignoria, come mi ha riconosciuto che se chiedo 200 scudi per 8 figure, il principe Rufo me ne offre 100, perché sono una donna e il merito non vale? La destra, inanellata pesantemente, si fruga in petto, nel bianco petto scoperto. Non dico bugia, Vossignoria può sincerarsi, la lettera è qui. Quel maneggio della lettera pescata e raccolta, come si disse nel Golfo di Venere. L'esclamazione, poco dopo, nel silenzio della compagnia, tengo nel petto un animo di Cesare. L'inchino smisurato a una signora capomazza, cafona di Aversa che vuole il ritratto, scambiata da Artemisia per dama della viceregina. Di tali e simili malestri fa lucidamente rassegna la pittrice, una volta che, spente le torce e senza assicurarsi che la porta della sala sia chiusa, disgusto e paura son nemici, prende la lucerna per salire in camera. Una bella occasione, questa lucerna, recata a mano da una donna bianca e bionda che ogni passo forma un'ombra bizzarra. Un'occasione da studiarci allo specchio per esercizio di quella pittura che oggi tanto incontra, di Gherardo Fiammingo. Ma è tardi. Tardi per ogni verso, e fra quelle sedie smosse e rovesciate, fra quei bicchieri dimezzati, quegli sputi sul pavimento, Artemisia passa senza fermarsi, tenendo dietro i suoi pensieri sconsolati. È grazia se s'accorge di qualcosa che le intralcia il passo e ruzzola lontano. Una palla, una mela? Caduta forse di tasca a uno che non aveva cenato, uno come Diego un anno fa? Senza salutarla, Diego è scomparso. Certo è uscito per qualche raggiro, qualche basso servizio su cui speculare, che già si sa vuol tornare in Spagna con la borsa piena e non sarà la sua signora e padrona, come gli piaceva dire e conclamare, a trattenerlo. Com'è difficile, com'è costoso a questa luce, con questo silenzio, persuadersi di essere ancora una donna. I servi dormono in soffitta e sul suo bel letto ricco di virtuosa solitaria ella potrà stanotte anche morire. Nessuno se ne accorgerà. Ma non a morire, pensa Artemisia, che è pensiero che non duole, sì bene a quelle sue goffaggini di poco fa, a quegli atti e parole da donnetta, vile scoria uscita da lei, dalla ferita che una ragazza dalla guancia piena le ha inferto ricusando la sua amicizia. Nessuno le può far male quanto una donna. Questo avrebbe dovuto spiegare a quei signori che forse si sono divertiti ai contrasti delle due virtuose. Vedete queste femmine? Avrebbe dovuto dire, le migliori, le più forti, quelle che più somigliano ai valentuomini, come sono ridotte, finte e sleali fra loro nel mondo che voi avete creato per vostro uso e comodità. Siamo così poche e insidiate che non sappiamo più riconoscerci e intenderci, o almeno rispettarci come voi vi rispettate.